Abbiamo indetto lo stato di agitazione più di una settimana fa a causa di continui contestazioni disciplinari concatenate assurde di ogni tipo, lavoratori accusati di non essersi presentati al lavoro pur avendo firmato l'entrata e l'uscita, lavoratori a cui vengono accusati di assenza ingiustificata con magari il foglio dei permessi compilato e firmato da parte del datore di lavoro. Insomma, tutta una serie di robe pretestuose che fanno pensare che l'azienda stia aspettando che qualcuno magari si dimentichi, come molti fanno, non è che ci sta sempre a conservare tutta la documentazione. A robe più pesanti, dunque lavoratori accusati di sabotaggio, diciamo disciplina, di non eseguire gli ordini dei propri lavoratori, ma roba tipo di contestazioni quotidiane, più di una al giorno. Per cui abbiamo fatto lo stato di agitazione, abbiamo chiesto un incontro, la conseguenza è stata che un nostro delegato sindacale con un altro lavoratore sono stati sospesi cautelarmente e ovviamente tutto ciò puzza di antisindacalità, perché vai a colpire proprio l'RSA su, tra l'altro, accuse che non esistono e sostanzialmente procedendo poi a sospensioni cautelari non essendoci alcun pericolo per la presenza del lavoratore nel posto di lavoro. Per cui insomma abbiamo aperto lo stato di agitazione, l'azienda non ci ha incontrati, per cui ieri insomma abbiamo proclamato lo sciopero, abbiamo iniziato il blocco delle merci ieri alle 11 di sera e poi ovviamente stamattina sono arrivate le forze dell'ordine, ci sono stati ovviamente gli scontri e adesso abbiamo un delegato che insomma è ricoverato all'ospedale e stiamo aspettando un attimo gli esiti, più un altro lavoratore che è stato medicato sul posto per cui si è rifiutato di andare all'ospedale. Il problema è che cioè, qualcosa ci fa pensare che nel nuovo piano industriale di SDA, che per carità ci verrà presentato con Poste Italiane nelle prossime settimane, perché stanno concludendo il piano industriale, c'è cioè un po' che si parla di esuberi in quello stabilimento, per cui il dubbio è che loro stiano procedendo attraverso quelli che possono essere provvedimenti disciplinari a scremare il magazzino per evitare le procedure normali di legge. Questo è il nostro dubbio e non lo nascondiamo ai SDA, perché abbiamo anche scritto che questo è il nostro dubbio, ovviamente loro negano che sia così, però è un dubbio che ad oggi noi come organizzazione sindacale abbiamo. Queste contestazioni poi non è che sono solamente rivolte a noi dell'SGP, sono insomma pesanti in tutto il magazzino, per cui toccano i licenziamenti, le sospensioni, sono all'ordine del giorno insomma, per cui insomma tutto fa pensare che si stia procedendo a una diminuzione dell'organico del personale camuffato sotto disciplinare, quando invece in realtà ci si sta preparando a ben altro, ecco. Voi denunciate il fatto che l'azienda non vi faccia nemmeno vedere la documentazione che viene contestata? Sì, perché ovviamente se tu accusi un lavoratore, tra l'altro, di cose molto gravi, che siano il sabotaggio, che sia il rifiuto di eseguire delle prestazioni del lavoro da parte dei, li chiamano anche responsabili gerarchici, perché non scrivono neanche il nome di questi responsabili, però visto che loro fanno riferimento a date, gli orari ben precisi, noi nella procedura disciplinare abbiamo richiesto l'accesso a questi, alle testimonianze, ma anche alle telecamere, perché comunque insomma essendo SDA ci sta le camere da ovunque, dunque nelle buche laddove insomma ci sono i lavoratori coinvolti abbiamo chiesto di poter accedere alle telecamere. Dunque i lavoratori sono d'accordo, noi siamo d'accordo, la cooperativa carica le colpe sull'SDA perché non è facile avere il consenso, l'SDA nessuno se ne occupa, non si capisce chi abbia questa responsabilità insomma, perché sarebbe molto più semplice, se accusa un lavoratore di un fatto grave c'è la telecamera, vediamo la telecamera, non vedo che problema ci sia. Giovedì saremo in prefettura perché si è proposta di fare una mediazione, noi andremo in prefettura ovviamente, anche in prefettura noi richiederemo ovviamente l'accesso alle telecamere. È vero quello di cui vengono accusati i lavoratori, non capisco che problema ci sia a vedere le telecamere.